Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, situazione ancora in divenire dunque in Grecia, con segnali di tensione politica in calo. Naturalmente il riferimento è alla vicenda della chiusura della TV statale greca e RT, decisa a sorpresa martedì dal governo di Atene. Il primo ministro, il conservatore Samaras, insiste nel voler ristrutturare l'ente pubblico. I leader dei due partiti che lo sostengono si limitano per ora a chiedere un incontro sulla questione. Resta ferma e forte l'opposizione di sindacati e organizzazioni sociali. L'Italia deve attenersi con rigore al percorso di moderazione del disavanzo specificato nell'aggiornamento per il 2013 al fine di ridurre al minimo il rischio che nel prossimo futuro venga superato di nuovo il valore di riferimento del 3% del PIL. Questo si legge oggi nel bollettino della BCE e il bollettino mensile riferito al mese di giugno. La garanzia per i giovani deve essere applicata concretamente dal 1 gennaio 2014, così il presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso, in vista del vertice di giugno, ha chiesto l'anticipazione dell'operatività della misura destinata a combattere la disoccupazione giovanile. Su questo tema Laura Bettini ha intervistato l'europarlamentare del gruppo dei Popolari, Erminia Mazzoni. Si definiscono alcune priorità sicuramente importanti e condivisibili, però sono regole. Dopodiché si dimentica che il problema della disoccupazione con il quale ci confrontiamo oggi è un problema stratificato, quindi ci sono non solo i giovani che rappresentano il nostro futuro, ma ci sono quelli diciamo i cinquantenni della media generazione che si ritrovano in situazione di disoccupazione, e c'è il problema delle imprese di fronte al blocco dell'economia e all'assenza totale di una politica di rilancio e di crescita da parte dell'Unione, licenziano e non hanno più la possibilità, come è stato negli anni passati, di garantire ulteriore occupazione. C'è anche il piano economico, poi, esatto, delle risorse. Delle risorse, è arrivati a dire 12 miliardi, in realtà la cifra è incerta. E questa cifra non prevede risorse nuove, sono risorse dei fondi strutturali della politica di coesione, in parte recuperati dal non speso dell'agenda 2007-2013 e in parte da altre risorse che sono state recuperate o si pensa di recuperare nelle pieghe del bilancio. Quindi non c'è un investimento verso il rilancio dell'occupazione in Europa da parte della Commissione. Si chiama Ombudsman, un termine che suona strano decisamente e che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia, pensate, nel 1809. Letteralmente significa l'uomo che funge da tramite. Molte istituzioni ne hanno uno e c'è un Ombudsman europeo di cui ora parliamo perché tra poco dovrà essere eletto. Infatti in luglio viene votato, eletto dal Parlamento europeo, lo European Ombudsman. Allora c'è una gara, una vera e propria gara di candidature. I candidati infatti dovranno essere ascoltati entro il 18 giugno, quindi la prossima settimana, dai membri delle commissioni per le petizioni. Tra loro c'è anche l'eurodeputato italiano Francesco Speroni, Lega Nord, che è stato sentito da Maria Luisa Pezzali. Precisiamo, il mediatore europeo in Italia potrebbe essere meglio definito difensore civico, ed è quella persona, quell'istituzione che aiuta i cittadini nei loro contrasti con l'amministrazione pubblica, in questo caso ovviamente se c'è qualche problema con le istituzioni europee. No, ho posto la mia candidatura in quanto sia 20 anni di Parlamento europeo sia la mia professione di avvocato penso mi pongano in grado di svolgere degnamente questo compito. In Italia è una figura poco conosciuta. Diciamo che gli italiani insieme ai francesi sono gli ultimi a usare questo mediatore, conoscendo, chiamiamolo così, la litigiosità dei connazionali, non è perché non ci siano contrasti, ma penso proprio per il fatto che non conoscano questa figura. Ripeto, corrisponde al difensore civico che c'è in molte regioni, che c'è in molti comuni e quindi aiuta, anche se il suo limite è quello che, non essendo né un arbitro né tantomeno un giudice, può decidere, può solo proporre una soluzione all'amministrazione e se l'amministrazione l'accetta e il cittadino è soddisfatto, la cosa è risolta, se no, come prevede lo statuto del mediatore, deve invitare il cittadino a rivolgersi ad altre istanze, a cominciare dall'autorità giudiziaria, quindi c'è questo limite. D'altro canto il mediatore è molto influente e quindi la maggior parte dei casi li risolve appunto in via extragiudiziale. E ora concludiamo il nostro appuntamento di metà giornata con l'Europa con un'intervista che Enrico Brivi ha realizzato a Jeremy Rifkin, l'ha incontrato nella serata milanese ieri al centro di un incontro che parla di energie rinnovabili. Per molti, come sapete, il futuro anche economico dell'Europa, dell'Unione, dell'Euro è legato alla capacità di agganciare il grande cambiamento. Sentiamo il servizio. La terza rivoluzione industriale, basata su energie rinnovabili e reti intelligenti, in Europa sta già prendendo forma. Germania, Danimarca e la regione francese di Nord-Pas-de-Calais si muovono in questa direzione, mentre l'Italia è in ritardo per carenza di programmazione politica. È l'opinione del sociologo Jeremy Rifkin, che ieri a Milano ha aperto con una lectio magistralis le manifestazioni della milanesiana. Per Rifkin, l'unico modo per garantire sviluppo sostenibile e occupazione in Europa è puntare sui cinque pilastri della terza rivoluzione industriale: energie rinnovabili, conversione degli edifici in centrali energetiche diffuse, utilizzo di tecnologie per l'immagazzinaggio come l'idrogeno, reti intelligenti e trasporti basati su veicoli ibridi e ricaricabili. L'entusiasmo americano per lo shale gas ottenuto dalla frantumazione delle rocce è mal riposto, secondo Rifkin, perché il futuro resta delle energie rinnovabili, non nei combustibili fossili. Per lo studioso americano, l'Europa e la Germania lo hanno capito, l'Italia dovrebbe crederci di più e sfruttare meglio nella green economy le enormi potenziali delle sue piccole e medie imprese. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Filippo Reggi in regia, Gigi Donelli al microfono, Europa 24 torna domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.